la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Va bene, confesso, sono nato in Basilicata. Sì, la Basilicata esiste. Esiste. È un po' come il concetto di Dio. Ci credi o non ci credi? Io credo nella Basilicata. Una grande Basilicata, una Basilicata che estende i suoi confini fino a Foggia, fino a Salerno. Una Basilicata grandi pascoli, perché la Basilicata ha bisogno di orologi, ha bisogno di mucche, ha bisogno di cioccolato. Altrimenti non sarà mai la Svizzera del Sud. Ba, ba, Basilicata, ba, ba. La Basilicata esiste, dice Rocco Papaleo in Basilicata Coast to Coast. Esiste soprattutto nel cuore dei Lucani. È un posto quasi onirico, raccontato nel 1963 così da una regista esordiente. Qua da noi così si usa. Dopo mangiato, tutti a coricare. Quando è la controra, si buttano tutti nelle braccia di Morfeo, che in questo paese dovrebbe essere fatto santo patrono e portato in processione al posto di Sant'Antonio. Io non dormo, e chi ci riesce? Nella testa mia continuano a girare domande senza risposta. Quest'ora è sacra. Anche chi la dedica alle letture culturali, come Francesca, alla fine si addormenta. E sognerei chissà d'essere Gordon, Superman. Nel buchito. È il 1963. Lina Wertmüller, a 37 anni, dopo anni di gavetta al fianco di registi come Fellini, esordisce alla regia. Il film, I Basilischi, è, come dirà lei stessa, la fotografia di un luogo. Ragazzi e vecchi immortalati nella loro ingenua quotidianità, fatta di amori nascosti e pennichelle. L'esordio della Wertmüller alla regia è anche l'esordio dunque di tutta una terra, la Basilicata appunto, che per la prima volta conquista il grande schermo. Beh, una sensazione di dire che bel lavoro, quindi la gioia di farlo, la voglia di farlo, l'impegno di farlo e riuscire a far tornare tutti i conti, che non era facile perché i soldi erano minimi, il tempo era minimo. Bene, bene. Era comunque, diciamo, già proiettata verso una forma di cinema già dal primo film di denuncia sociale? Ma io venivo dal teatro e ho cominciato con il teatro, quindi certo che c'è sempre interessi più o meno di vario genere, però esattamente quella, diciamo, immagine, quella fotografia del sud, della Basilicata, di un piccolo paese, diciamo, nell'interno di una regione così particolare come la Basilicata, non c'era una vera e profonda voglia di scardinare la società, non mi pare. C'era una fotografia di una faccia del sud. Se stai da retta agli altri non ti muovo più, dice Antonio. E dice che lui subito se ne vuole andare a Roma. Ma quando la sveglia ha suonato la mattina alle 6 che doveva andare a Bari per spostare l'iscrizione all'università, lui si è voltato dall'altra parte. Ha rimandato domani. Poi domani, e intanto continua a raccontare di Roma, delle donne. Quella con la catena d'oro intorno alla vita, quella con la parrucca, gli occhiali brillanti, la bionda che beve, la bruna che lo voleva lanciare nel cinema. Le favole. Parla. Tanto che non partirà più, tutti l'hanno capita. Eppure lui. Perché, e ci usava. Può essere che Antonio gli manca qualche cosa. O forse non ci manca a tutti noi. È per questo che la vita nostra passa e facciamo così poco. Così poco. Può essere che siamo quelli che la razza, il clima, il luogo, la storia hanno voluto che fossimo, come dice quel grand'uomo del sud. Bah. Antonio continua a parlare di Roma, Francesco continua a parlare della cooperativa. Ehi. E Roma e la cooperativa sono diventati solo un argomento per chiacchierare. Perché qua si chiacchiera tanto. La Vermuller ha 37 anni, indossa i suoi inconfondibili occhiali bianchi ed è finalmente arrivata alla macchina da presa. La sua prima volta da regista è un film che torna nella terra di origine del padre, la Basilicata. Un cast minimo, ma straordinario, fatto di visi lucani, un tempo lento e tanta ironia. Come quando una delle protagoniste, la vecchia donna Rosa, si lascia cadere dalla finestra, facendo il segno di fare silenzio a una comare che urla senza sosta. La madre della Vermuller proviene dalla nobiltà romana ed è questa provenienza che probabilmente dà a Lina Vermuller quello sguardo che altrimenti non avrebbe, uno sguardo sulla società che ancora oggi risulta giovane e non stereotipato. Ma insomma, sai com'è, la società va avanti a onde, questo è certo, è sempre stato così, però più o meno mi pare che vogliamo accusare il benessere di aver tolto un po' di pizzicolino alla vita? A me non mi pare, può darsi, ma non mi pare. Non mi pare particolarmente, madonna che brutti tempi, non mi sembra, anzi. È un po' così, l'appiattimento sul benessere che può dare questa sensazione, ma può darsi. La prima volta. La prima volta di Lina Wertmüller è anche la prima volta di un certo cinema italiano. Lina è stata assistente di Fellini e prima ancora animatrice e regista degli spettacoli di Burattini di Maria Signorelli. È una gavetta lunga, faticosa, che accentua nella regista la vena ironica. Alla fine degli anni 60 tutto questo prenderà forma in una serie di film che faranno di Lina Wertmüller una delle poche registe italiane capaci di fare film bellissimi con incassi record, raccontando l'Italia con ironia amara come il Mimì metallurgico. Chiamatemi Mimì, per i miei occhi neri e i capelli, i miei neri pensieri. C'è Mimì che cammina sul ponte per mano alla figlia e che guardano giù. È il 1972. Nelle sale cinematografiche Lina Wertmüller esce con Mimì metallurgico ferito nell'onore. Un film attuale ancora oggi, con un meraviglioso Giancarlo Giannini per protagonista. A dove sei domasciato picciotto d'onore fino in fondo? Per questo ti fece trasferire. Ora qua puoi fare una buona carriera, la raffineria. E di dovere è stato avvertito che tu sei persona noscia. Ecco, è proprio questo che non me va. Perché io non ci voglio avere a che fare con voi. Perché io sono diverso. Io credo nella gente per bene, nella gente che lavora. Io per tua norma e regola, picciottetto. Io ho lavorato sempre. Tu che te credi che tutta questa roba qua si fa a parole? Non lotte, sangue, è il lavoro per tanta povera gente. Ma no, per piacere, per cortesia, non parlate della povera gente, voi, la povera gente. Sì, la povera gente che voi l'avete sempre sfruttata, la povera gente. E come, se no come facevate a fare tutta questa grazia di Dio? Bruciando l'arancete per costruire sto schifo di due camere e cucina a 900.000 lire di anticipo. Perché non si sa come si fanno le lezioni, qua da noi poi. Ma sì, sono proprio quelli come voi, a portarci l'acqua con le orecchie. Servo dei padroni, sì. Quelli che tu chiami padrone ci fanno idde da servo a noi. A questo ci avevo mai pensato, scemo nero. Il trio Giannini Melato con alla guida la Wertmüller diverrà il simbolo di una scuola di cinema, del talento che si sposa all'ironia. Quella prima volta di Lina alla macchina da presa con i Basilischi è già molto lontana, eppure la Wertmüller persegue ancora quell'ideale, e cioè la voglia di raccontare, senza troppa retorica, classi sociali a confronto. Come se, in ogni pellicola, ritornasse quanto da ragazza viveva in casa. Il padre, di estrazione popolare, la madre proveniente dalla ricca nobiltà romana, uno spaccato che ben racconterà in travolti da un insolito destino. Quando ci verranno a recuperare, se lei sarà gentile, io le sarò grata, lei non si pentirà. Ma insomma, guardi, adesso basta con questa storia, eh? E a che dono dice che ci verranno a salvare, eh? Che dono dice? Ma che te lo dico? Qua su quest'isola non ci resteremo 1, 2, 3, 4, 5, 6 anni, eh? L'ammazzo! Ah, tu t'ammazzi? Io ammazzo, sono fatti tuoi. Ma se vuoi stare qua e vuoi mangiare, devi lavorare, hai capito? Guardi, mi fa male, eh? Guardi, mi fa malissimo! E te farò ancora più male assai a te, finché non hai capito bene chi è il padrone. Bacia la mano al padrone, bacia la mano, bacia la mano! Prego! Bacia! Io non tappo tanto industriale che mi facesti sputare sangue su che da maledetta vacca che ancora ieri sera ti permettesti di dirmi in faccia che ti faccio schifo. Sono morto che ero bambino, sono morto con altri 100. Lina Wertmüller è anche la donna che sta dietro la macchina da presa in Pasqualino 7 bellezze, un film che diverrà l'emblema del cinema italiano e verrà candidato a 3 premi Oscar. Ma che succede a sto mondo? Ma quando è stato che il mondo è diventato così? E noi ci facciamo uccidere in questa maniera e nessuno dice niente. Ma come, gli ebrei? Ma che caspita che erano tanto furbi, tanto figli entro occhi. I russi che hanno fatto quella popolare rivoluzione, ma e non si ribellano. Ma è proprio destino mio finire in posti in merda come ha chiesto. Giancarlo Giannini è stato un altro capitolo importante della sua vita professionale. Un grandissimo attore. Mi pare poco. Ma siete rimasti in rapporti, diciamo, di amicizia, sì, voi due? Vi certo, senti? Certo, però la vita porta per le sue strade. Ma siamo di forti, ottimi amici, figuriamoci. Invece un'altra cosa che volevo chiederle era se si ricorda il momento in cui ha ricevuto la notizia che Pasqualino Sette Bellezze era stato candidato a 3 premi Oscar. Non me lo ricordo, sono passati anni, non credo che non mi abbia poi colpito talmente tanto forte, non me lo ricordo, ecco. Per Pasqualino Sette Bellezze, che ebbe successo anche negli Stati Uniti, la Wertmüller fu candidata a 3 premi Oscar nella cerimonia del 1977, tra cui quello per la miglior regia, mentre una quarta nomination arrivò a Giancarlo Giannini per la sua interpretazione da protagonista. Alla fine di una carriera fatta di successi, di prime volte che ciclicamente ritornano, Lina Wertmüller dice di non ricordare il momento in cui fu candidata all'Oscar. Una reticenza ad altri tempi, fatta di slanci e generosità, come quando ne approfitta per parlare di un'altra donna alla regia e per tratteggiare con leggerezza il suo percorso professionale. La notare, quella è stata sì una delle prime registe donne del mondo, ed era di vicino Napoli e ha fatto tipo 70 film. È un personaggio molto interessante la notare, era già così all'inizio secolo, cioè c'era una donna in giro e faceva questo mestiere. Elvira Coda Notari fu la prima donna regista italiana, nacque nel 1875 a Salerno. È anche una delle prime registe della storia del cinema mondiale. Elvira Notari girò 60 lungometraggi, fondò una casa di produzione, realizzò opere di grande importanza storica, raccontò il Sud come nessuno lo aveva mai fatto ed era solo l'inizio del Novecento. Bella cosa, na giornata su, na ria serena. Io non mi sono stirato niente, mi sono messo a lavorare perché mi piaceva lavorare, mi divertiva quel lavoro, mi divertiva lo spettacolo, mi piaceva, mi dava. Invece c'è qualcosa che si pente proprio di non aver fatto? Altri 30 film che spero di fare prima. Io ho progetti fino a 105, 506 anni, se mi riesce, e quindi però non sto a sentire dei film, se ci riesco. Perché ha sempre scelto film e titoli per i suoi film così lunghi? Lo so che gliel'avranno già fatta 100 volte questa domanda. Perché i produttori me li chiedevano corti, i produttori del titolo ideale è, in una parola, anche corta. Per esempio, non so... Forse, questo è un titolo che mi piacerebbe moltissimo perché potrebbero scriverlo gratis, però in realtà era un gioco, perché poi si ricordano per una parola, insomma, perché per esempio Travolti da un stato del stile nel giorno pari d'agosto uno si ricorda Travolti. Sarà che tutta la vita è una strada con molti tornanti. E che i cani ci girano intorno con le bocche fumanti. E se provano noia, tristezza o dolore, oh, amore, non so. Lina Wertmüller è la prima regista donna al mondo che ha ricevuto la candidatura all'Oscar nel 77. Per la ragazza dagli occhiali bianchi è solo un passaggio qualsiasi, del quale non conserva provocatoriamente ricordi. La prima volta termina qui. Se volete, potete riascoltare il podcast andando sul nostro sito radio24.it. Il nostro indirizzo email è laprimavolta@radio24.it. Ci sentiamo domenica prossima, sempre attorno alle 13. Buona domenica a tutti da Cristina Carpinelli.